Riflessioni da Marte. Qui da Marte, col telescopio puntato sulla sfera terracquea, in specie sullo stivale italico, bisogna dirlo, si è colti da grande confusione. Struttura delta, P4. L'Italia è un paese sopraffatto, diciamolo, da problemi algebrici di complessa soluzione. Il paradosso è che i bipedi italici sono pure debolucci in matematica, piuttosto risaputo. Non cretini però, gli italiani almeno, non tutti. E poi talvolta c'è qualcuno che lo dice serenamente di qualcun altro. Dovevo essere un cretino come te e stare a bocca aperta ad ascoltarti. E certo che poi, dopo aver dato del cretino a qualcuno, per rimediare non basta nemmeno la pillola indorata del giorno dopo. In ogni caso, rassicuratevi, i problemi algebrici o meno che siano non ci sono solo in Italia. Pensate per esempio a come se la passa il Giappone. Tanto per dirne una, il ministro giapponese per la ricostruzione, tale Ryu Matsumoto, poteva mai non finire in moto il suo cognome, che giapponese mai sarebbe stato. Ebbene, Matsumoto, una settimana dopo la sua nomina a ministro, dice: il governo giapponese aiuterà per la ricostruzione solo le municipalità che portano delle idee, le altre no. Immaginate come sono stati rinfrancati i giapponesi da questa benevola e rassicurante dichiarazione del ministro. In molti a questo punto ambivano alla testa di Matsumoto, e così il ministro, a una settimana dalla sua nomina, si è dimesso. Lui sì che ha avuto una bella idea, quella che chiedeva alle municipalità, quando si dice, insomma, la creatività al potere. Comunque, strano stivale, tuttavia, bisogna dire, ritornando all'Italia, dove non c'è verso di sapere quale cristiano ha inserito una controversa leggina all'ultimo momento in un'intera manovra, ma si viene tuttavia a conoscenza in modo assolutamente trasparente di quante volte il Presidente del Consiglio lo fa in una settimana. Lo dichiara in un'intervista proprio in questi giorni su un settimanale il suo ex medico personale, Scapagnini. È un uomo fisicamente e intellettualmente superiore, assicura. Può avere 6 rapporti alla settimana senza esagerare. E il 7° giorno, aggiunge solenne, si deve riposare. Insomma, c'è effettivamente qualcosa di divino, insomma, tutto questo, no? Ma si sa, gli italiani, gente attiva da questo punto di vista, così almeno dice la leggenda. Sarà mica colpa di certe canzoni che ti ronzano nell'orecchio sin dalla prima adolescenza, no? Avete presente? E poi dopo? Dopo che uno per una vita, cantando, ha conturbato e trasubillato intere generazioni, cosa fa? Annuncia che andrà in convento, davvero. Lo ha detto in questi giorni proprio Claudio Baglioni. A fine carriera mi ritiro in convento. Ma come? Ti ritiri tu trallallero, ma come? C'è da chiedersi proprio tu, Claudio, che hai tanto parlato di baci a labbra salate, di mani smaniose, di cose proibite, di far l'amore giù al faro, che effettivamente è un po' scomodo, insomma, molto suggestivo. Tu che mitizzavi quella maglietta fina, che se la sognavano pure qui, su Marte. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto.